4 e. Ascolta e trasforma. Stefano lavora molto. Stefano e Maria lavorano molto. Mina telefona a casa. Mina e Maria telefonano a casa. Giada abita al centro. Giada e Maria abitano al centro. Alberto ascolta il professore. Alberto e Maria ascoltano il professore.